Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Brasile con Alberto Riva. Quali paesi mi piacerebbe visitare ancora? Sono tanti e non tutti possono entrare nella programmazione di Compagni di viaggio. Certo è che se prima della fine non faccio un salto in Brasile, lo rimpiangerò per sempre. Nome: Repubblica Federale del Brasile. Forma di governo: Repubblica Presidenziale Federale. Capitale: Brasilia. Popolazione: 190 milioni di abitanti circa. Lingua: portoghese. Confini: a nord confina con Guyana francese, Suriname, Guyana, Venezuela. A nord-ovest con la Colombia, a ovest con il Perù, a sud con Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina. Clima: il clima cambia secondo la latitudine e la longitudine. La denominazione delle stagioni è quella dell'emisfero sud, invertita quindi rispetto all'Europa. Si distinguono sei principali zone climatiche: equatoriale, tropicale, subtropicale, semiarida, temperata, tropicale di altitudine. Religione: la confessione più diffusa è il cattolicesimo. Sono presenti inoltre numerose chiese evangeliche e, come caratteristica tipica del Brasile, sono diffusi culti e pratiche religiose che uniscono elementi di tradizione cristiana a quelli di tradizione africana. Valuta: real brasiliano. Fuso orario: varia secondo l'andamento dell'ora ufficiale nei diversi stati della federazione. Orientativamente, nelle principali città, Brasilia, Rio de Janeiro, San Paolo, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte, la differenza di orario con l'Italia è: dal mese di ottobre a febbraio di meno 3 ore, nel mese di marzo di meno 4, dal mese di aprile a ottobre di meno 5 ore. I primi contatti sono stati con la musica e con la letteratura, cioè prima la musica, perché io sono sempre stato un grande appassionato di jazz e quindi poi inevitabilmente si scopre la musica brasiliana, che è un parente molto stretta del jazz, perché tutte e due sono musiche che nascono dall'incontro tra le Americhe e l'Africa. La letteratura però contemporaneamente della letteratura di Jorge Amado, che era lo scrittore più tradotto in Italia, perché sono tradotti pochi scrittori brasiliani. E Jorge Amado è stato una delle mie grandi passioni quando avevo 20 anni, 25 anni, 22 anni, insomma, con i suoi romanzi che normalmente ritrattano della Bahia, cioè della saga, soprattutto legata a quei territori del nord-est del Brasile, il cacao. E quindi io ho sentito subito questa grande attrazione per, insomma, questo mondo che Jorge Amado raccontava come un grande scrittore, insomma, che mi sembrava uno dei grandi scrittori. Che tipo Steinbeck, no? Cioè un po' di furore, insomma, il suo romanzo Messe di sangue o Le terre del finimondo, per esempio, è un romanzo come furore. Il Brasile è nella musica e nella letteratura per Alberto Riva, il mio accompagnatore, prima che sotto le suole delle sue scarpe di viaggiatore. Ed è solo l'inizio. Pare proprio che il Brasile si avvinghi nel profondo di chiunque vi entri in contatto. Un po' come il cacao nelle terre del finimondo di Jorge Amado. I lavoratori delle piantagioni recavano il vischio del cacao molle attaccato alla pianta dei piedi, come una spessa scorza che nessun'acqua al mondo avrebbe mai potuto lavare. Ma tutti i lavoratori, colonnelli, avvocati, medici, commercianti ed esportatori, avevano il vischio del cacao attaccato all'anima, nel profondo del cuore. Alberto prosegue nella sua descrizione letteral-musicale, prima che geografica, di questo paese sconfinato che è il Brasile. In fondo, il suo primo contatto è stato nelle note delle canzoni brasiliane e tra le righe dei libri di Jorge Amado. Quindi questo succede più di 10 anni, più di 15 anni, 10 anni prima, poi per me di arrivare in Brasile veramente, che è stato nel 2003. Ed è stato per amore, cioè con mia moglie, con la mia ex moglie, oggi ex moglie. Però nello stesso tempo io avevo già tutto un mio sostrato, quindi arrivandoci mi sembrava di ritrovare delle cose. E però sono arrivato a Rio, non sono andato a Bahia per i primi anni. Rimaneva una sorta di cosa. E quindi in realtà la scoperta forte è quella che noi del Brasile conosciamo veramente pochissimo. Cioè queste cose che anche gli appassionati del Brasile, della letteratura e della musica brasiliana, che normalmente è la bossa nova in generale, prima di scoprire che la bossa nova è samba fatto in maniera più moderna, scopriamo però che in realtà si conosce molto poco, e quindi è tutta una grande scoperta di altri scrittori, di altra musica, e si scopre che il Brasile è enorme. Quindi tornando a quello che dicevamo prima, parlare di Brasile è abbastanza impreciso, perché in realtà è un paese immenso, grandissimo, come se fosse da Lisbona a San Pietroburgo, quindi insomma come area, e in realtà è questo luogo enorme dove si parla la stessa lingua, che è l'unico paese in Sud America che parla il portoghese, ma che unisce delle diversità soprattutto geografiche e sociali molto forti. Il Brasile è così grande che dentro ci sta tutto, anche l'ispirazione per un nuovo romanzo. Quindi dopo scopri per esempio la costa del nord-est, dove c'è Bahia, che è già un altro luogo. Poi c'è la zona del semiarido brasiliano, che è quest'area grande un po' come metà Europa, diciamo, come Francia, Belgio, un pezzo di Germania, che è quest'area di 4-5 stati che vivono, insomma, sono secchi, non piove mai. E lì è una parte dove è ambientato il mio romanzo, perché parlando di un fiume che si chiama Fiume San Francisco, lui attraversa la parte sud di questo semiarido e l'acqua di questo fiume è depredata per dare da bere a questa parte. Questo nella realtà, poi questa è una cosa che ha ispirato il romanzo. Alberto si riferisce a Sete, il suo thriller dove la sete viene davvero solo a guardare la copertina e a leggere la frase che campeggia sopra il titolo. La verità è come la sabbia. Quando capovolgi la clessidra, la verità si sposta, scivola, fluisce e cambia posizione. Mente o meu coração, che cansado di soffrire. Só deseja adormecer na palma da tua mão. Conta ao meu coração história das crianças, para que ele reviva as velhas esperanças. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Brasile con Alberto Riva. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Jorge Amado è stato lo scrittore che ha fatto conoscere il Brasile al mio compagno di viaggio di oggi, ancor prima che ci mettesse piede. Da allora, attraverso la letteratura e la musica, Alberto Riva non ha più smesso di amare questo paese. Paese che, come ci tiene a precisare, è talmente grande da essere poco catalogabile sotto un'unica categoria. Forse però c'è una città che lo condensa tutto. Quindi io ho vissuto quasi sempre a Rio, e Rio è una città che in qualche maniera sintetizza il Brasile, cioè tutte le differenze anche di parlato, di lingue che si parlano in Brasile, di dialetti, e anche la cultura, la musica, e poi perché, come tutte le grandi città brasiliane, ha attratto nel corso di questo secolo, diciamo dell'ultimo secolo, lo scorso, ondate migratorie interne molto forti, soprattutto dal nord, quindi dall'Amazzonia, dagli stati poveri del nord-est, dalla parte ovest che confina con il Perù, con la Colombia, Bolivia, eccetera. Quindi in realtà il Brasile è un paese che è molto poco esplorato da un certo punto di vista, perché lui, se non ne ha colpa, secondo me, ha colpa di avere dei simboli fortissimi, che sono appunto, alcuni di questi sono concentrati tutti a Rio, che sono Cristo Redentore, la spiaggia di Ipanema, il pan di zucchero. Insomma, questa città ha una sua realtà geografica che è straordinaria e lascia tutti così assolutamente affascinati quando si arriva a Rio de Janeiro. Beh, è vero, il Cristo Redentore, una delle sette meraviglie del mondo che sovrasta la città e la baia di Rio, l'abbiamo visto tutti anche se non siamo stati in Brasile. E poi la spiaggia di Ipanema, che nella mia testa si ricollega subito alla ragazza che passa e ondeggia dolcemente sulla strada verso il mare, descritta da Vinicius de Moraes sulle note della strepitosa bossa nova di Tom Jobim. Che musicalità ha il Brasile! Olha che coisa mais linda, mais cheia di graça, è la menina che vem e che passa, doce balanço, caminho do mar. La città di Rio ha sempre accolto moltissimi stranieri e racconta molto profondamente il Brasile, come se si fosse in tutte le parti del Brasile, perché nelle periferie, nelle favela si hanno le culture più regionali che si vanno lì e rimangono e ovviamente e si sviluppano, e poi ovviamente la parte più borghese, la parte affacciata sul mare, che è una zona completamente diversa della città rispetto alle periferie. Però la caratteristica di Rio de Janeiro, che è anche un po' la caratteristica della cultura brasiliana, è quella di sempre andare alla ricerca di una specie di sincretismo, no? Di una specie di possibilità di incrocio, perché io credo che questa cosa faccia parte proprio della natura di un paese che è stato fondato da dei migranti e che quindi non vivono anche gli stessi portoghesi, che poi lasciano la loro lingua e quasi tutte le abitudini e la cultura, in realtà si mischiano con i neri della, cioè portano i neri, non solo i portoghesi ma anche i francesi, i spagnoli eccetera, i neri africani, gli schiavi e poi gli indios, che in realtà danno al portoghese brasiliano, appunto già partendo dalla lingua, il portoghese brasiliano che si parla in Brasile è completamente diverso dal portoghese del Portogallo, perché appunto è fondato sull'incontro con le lingue degli schiavi africani e degli indios, quindi in realtà da lì viene questa sua morbidezza, questo suo essere una lingua molto più, molto ricca e in realtà molto adattabile. Trama in segreto teus planos, parte sem dizer adeus, nem lembra dos meus desenganos, fere quem tudo perdeu, a coração leviano. Sabe o que fez do meu? Ah, coração leviano, não sabe o que fez do meu. Che lingua è il brasiliano? Sembra fatta apposta per metterci sotto della musica. Come dice Alberto Riva, è una lingua che nasce dalla strada. Ed è proprio la cultura della strada che ha formato le cose che più amiamo del Brasile. Prima del libro Sete, Alberto ha scritto un reportage su Rio dal titolo Seguire i pappagalli fino alla fine, dove si racconta molto della musica brasiliana, di questa cultura fatta di poche cose. E nelle interviste che ha fatto in giro per raccogliere il materiale, mi dice, ha avuto l'occasione di incontrare persone molto modeste, ma con una cultura decisamente raffinata. Un sambista, per esempio, mi raccontava che lui quando era piccolo andava in casa di un altro celebre sambista, che in realtà era un ex poliziotto a cavallo, questo sambista, che poi fece un incidente in un'azione e rimase sulla sedia a rotelle. Ma e da quel momento non fu più poliziotto e si dedicò esclusivamente a essere compositore di samba. Si chiamava Candeia, questo sambista, e lui, questo compositore contemporaneo molto importante in Brasile, che si chiama Ginga, che suona spesso anche in Italia, lui andava da bambino, perché era nato nello stesso quartiere, a casa di Ginga, e lui rimase, mi ha raccontato che rimase molto colpito dal fatto che a casa di questa persona modestissima socialmente, quindi una di queste case di periferia, un piano col giardinetto, però, e lui un poliziotto a cavallo che viveva della pensione di poliziotto che era caduto da cavallo ed era rimasto ferito, c'erano dei dischi di jazz molto raffinati, e lui, che era un ragazzino di 10 anni, di 11 anni, quasi non osava domandare, ma com'è che fai ad avere in casa il disco di Brubeck, per esempio il quartetto di Dave Brubeck con Paul Desmond che fanno Take Five. Questa doppia veste di forma e sostanza che si differenziano e che da noi invece verrebbero subito fatte coincidere, non è solo per la musica e i musicisti, ma coinvolge un po' tutto. La stessa cosa si trova negli scrittori. Giorgio Amado era figlio di un fazendero che poi ha dedicato la sua vita a combattere in qualche maniera ideologicamente la cultura del ricco contro il povero, eccetera. Ma in realtà sono persone di un'eleganza naturale, di una raffinatezza, di una ricerca culturale straordinaria. Questo in fondo è una delle caratteristiche del Brasile, secondo me, meno conosciute. E che a me ha affascinato enormemente, perché lì la persona può essere tante cose contemporaneamente. Questa è la cosa che secondo me affascina tutti gli stranieri, che sia nel passato che ancora oggi vanno a Rio e non tornano più. Cioè il fatto che tu puoi buttare via i tuoi vestiti, improvvisamente vivi alcuni anni in pantaloncini, Havaianas e maglietta, ma tu rimani un grande architetto. Cioè questo non ti viene assolutamente... Favela, pega, se pega, periferia, vielas, favela, que o bicho pega, ó, se pega, periferia, becos, vielas, se já era, favela, que o bicho pega, ó, se pega, periferia, becos, vielas, se já era. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Brasile con Alberto Riva. When I walk beside her, I am a better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Brasile da Pau Brasil. L'albero Brasil, nativo della foresta vergine, che ricopriva completamente le regioni litoranee del Brasile. La parola Brasil potrebbe derivare dal colore rosso brace della sua resina, ma esistono molte altre etimologie alternative della parola Brasil, così come esistono molti Brasile, anche se abbiamo visto con Alberto Riva, che mi sta accompagnando alla sua scoperta, Rio è forse la città che lo sintetizza tutto. Una cosa è certa. Quello del Brasile che più si ama, almeno è così per il mio compagno di viaggio, è questa semplicità dei modi che si trova anche nelle persone più culturalmente complesse. La dimostrazione che la forma e la sostanza possono, e forse devono, differire. Per esempio, nel mio libro precedente io avevo un incontro, c'è un capitolo dedicato a Oscar Niemeyer. Quando io lo intervistai nel suo studio, lui aveva 99 anni, e lui, che parlava già pochissimo perché era un uomo di 99 anni, che pure quando l'ho incontrato io stava ancora, aveva la matita in mano disegnando, lui in realtà parlava molto della città, perché in realtà lui indicava le finestre dal suo ufficio, che è un palazzotto disegnato da lui a Copacabana. Si vede tutta la spiaggia di Copacabana, il pan di zucchero, e si vede quello che c'è di fronte nella baia di Guanabara, che è Niterói, che è un municipio che è la sponda opposta della città di Rio de Janeiro, che è un altro municipio, si chiama Niterói, e lui è nato là, in una di queste piccole frazioni del municipio di Niterói, che si chiama Maricá. Però il fatto è che lui, le cose che lui ama dire sono che lui, per esempio, alla mattina una cosa per lui fondamentale nella sua formazione era il fatto che lui di mattina prestissimo andava con i domestici della sua famiglia, perché in realtà loro erano una famiglia borghese della città di Rio, che avevano la casa di veraneggio, come si dice, no? Di estiva sulla sponda di Maricá, e lui andava con le domestiche a prendere il pesce dalle reti dei pescatori alla mattina prestissimo, perché così c'era il pesce fresco. E queste sono... Quindi lui, tu chiedi a lui delle cose, vai a fare l'intervista di Niemeyer e pensi di potergli domandare, gli altri architetti, che... no, lui diceva no, queste cose non sono assolutamente importanti, l'importante è che io mi alzavo e andavo con queste cose. Niemeyer, l'architetto che ha progettato la maggior parte degli importanti edifici di Brasilia, come il Congresso Nazionale, il Palazzo del Planalto, la Corte Suprema Federale, il Palazzo Arcos, la Cattedrale e il Museo Juscelino Kubitschek, edifici divenuti pietre miliari del simbolismo moderno. Beh, capisco lo stupore di Alberto nel trovarsi di fronte soprattutto l'uomo e non solo il grande professionista. Era come Vinicius de Moraes, che era un grande compositore, era un diplomatico, accreditato, cioè nel senso che è stato console, viceconsole a Los Angeles, viceconsole a Parigi, è stato il compositore delle musiche della Bossa Nova, ha scritto La ragazza di Ipanema, era un chitarrista e compositore di musica popolare, era professore, amico del papà di Chico Buarque, che era Sergio Buarque, che è stato un grande sociologo degli anni 40, che aveva anche insegnato e vissuto in Italia, e lui era tutte queste cose insieme, e nessuna di queste cose gli era, come dire, gli era estranea o gli veniva imputato di non poterlo essere, perché lui era anche un bohemien che suonava e scriveva le musiche, eccetera. Questa cosa qui è una cosa veramente marcante della cultura, della cultura brasiliana. Spogliarsi di tutta la forma per vivere solo l'essenza della propria vita. Questo è il lato affascinante del Brasile e dei brasiliani. Riva me lo sta facendo conoscere mostrandomelo non come un luogo comune, perché ci sono tantissimi luoghi comuni sul Brasile. Ma, aggiunge lui, sono tutti veri, così come quello dell'allegria, che mi spiega Alberto, è basato sulla fede. È basato su un rapporto con il divino che è reale. E non è il fatto di andare in chiesa la domenica, ma è basato su un rapporto con l'ultraterreno, con una dimensione che non è una dimensione materialistica. Uno dei grandi poeti brasiliani, Ferrer Aguilar, ha cercato di spiegare questa cosa. Lui diceva: il rapporto del brasiliano con la religione più nella dimensione della festa che del rito. Questa cosa qui, e lui la definiva una relazione permissiva. È per questo che il Brasile, per esempio, è anche l'unico paese che ha amnistiato, per esempio, i delitti della dittatura. E su questa cosa non si torna assolutamente. Ogni tanto si prova a riaprire questa ferita, ma in realtà è una cosa che non potrebbe mai succedere in Brasile. Perché il Brasile ha questa, lui la definiva anche in maniera, lui è stato perseguitato, ha vissuto 7 anni in esilio, ma lui diceva questa relazione che lui definisce permissiva è una, lui diceva, infatti lui era amico di Vinicius de Moraes, eccetera, e qui Vinicius aveva il santo di Macumba appeso al collo, ma era normalissimo, era amico di Pablo Neruda, si parlava delle istanze culturali più, diciamo, in primo piano, però in realtà lui era quel personaggio che appunto aveva una relazione con quella cosa lì che è una cosa difficilissima da capire, che secondo me anch'io stesso non l'ho capita del tutto, perché ovviamente noi abbiamo la nostra, in realtà decidiamo che crediamo o non crediamo, crediamo anche agli spiriti o non ci crediamo, a volte pensiamo sì, preferisco crederci. Invece poi, in realtà, pure normale, anche in casa, cioè, tu devi immaginarti degli ambienti assolutamente, come dire, no? Allora, lei è designer, lui è architetto, eccetera. La domenica cosa si fa? La domenica la gente fa una defumação. Cioè la gente fa una defumazione alla casa, no? L'appartamento, tu immagini un appartamento stupendo, no? So, 300 metri, terrazzo sul Ipanema, eccetera. Però questo elemento c'è. Se tu vai in casa, io per esempio sono stato in questa casa studio immensa, meravigliosa di Gilberto Gil, che lui è stato, vedi, lui è stato ministro della cultura e nello stesso tempo è quella figura straordinaria di compositore, sambista, eccetera. E lui vedi lì proprio questo che sto dicendo, no? Vedi tutta una serie di oggetti di artigianato che vengono da tutto il Brasile, straordinari. Poi vedi un cesto, per esempio, per terra in un angolo con dentro delle uova. Perché queste cose sono tutti degli elementi, in qualche maniera, di credenza, no? Cioè di tenere lontano le energie cattive, di mantenere continuamente, di cercare di avere un controllo anche sull'elemento dell'invisibile. Defumação, parola bellissima. Posso immaginare come rito, anzi come festa, visto quanto diceva della religione Ferrer Aguilar. Comunque, le energie cattive che vanno tenute lontane, gli oggetti che ti mettono in comunicazione con chi non esiste più. Questa cosa in Brasile, prosegue Alberto, si incontra in varie forme e si trasferisce nella vita di tutti i giorni. Questa è per lui una delle fascinazioni maggiori del Brasile. Planete Ramp na área, canta, canta. Meu camarada, eu tô aqui pra falar de hip hop. Que subiu na minha cabeça, eu vou mostrar como é que sobe. Do B pra H, HMP, eu vou tentando rimar. Cê vai tentando entender. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Brasile, con Alberto Riva. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Siamo arrivati ai luoghi comuni sul Brasile, che a detta del mio accompagnatore Alberto Riva, sono tutti veri, come quello dell'allegria, che è una questione di fede. E a proposito di fede, ci sono alcuni riti che si possono comprendere solo se decidi di calarti completamente nei panni dei brasiliani, che hanno un legame con l'ultraterreno molto forte. Certo che è una cosa che è più facile fare lontano dalle megalopoli. C'è da dire che è una cosa che si può fare a Rio, sebbene sia una città molto grande, molto internazionale, visitata, che si affaccia sul mondo più delle altre, perché è un'icona, no? E lì succedono anche tante cose, eccetera. E lì si può fare, addirittura poi a Bahia, nelle altre città, moltissimo. Già non si può fare a San Paolo. Cioè, si può vivere con questo tipo di cose, però San Paolo è già una città, una super metropoli, tipo Città del Messico, queste città, o Buenos Aires, cioè immense, dove esiste un tasso di frenesia legato appunto alla concentrazione economica, al fatto che lì succedono tutte le cose economiche e la città cresce continuamente, quindi cantieri, traffico che aumenta e quindi una vita più, diciamo, in qualche maniera anche il brasiliano lì è un brasiliano più mondializzato, più globalizzato, più stressato. Mi sento ormai molto immersa nello spirito carioca. Riemerge in me un ricordo che risale all'università. In uno dei miei trasferimenti in treno avevo incontrato un signore che stava andando in aeroporto e mi racconta che sta partendo per il Brasile. Dopo avermi chiesto se ci sono mai stata, mi dice di aspettare prima di andarci, di girare un po', perché dopo aver visto il Brasile non avrei più avuto voglia di vedere altro del mondo. Chiedo ad Alberto se questo è in qualche modo un rischio che si può correre. Beh, c'è chi ama moltissimo, chi è andato in India, non è più tornato dall'India. O è andato in Giappone addirittura e si è innamorato della cultura giapponese. Quindi credo che quello debba colpire delle corde che noi, ognuno di noi ha. Però certamente è molto ricco, ti dà molto, proprio perché noi riscopriamo in Brasile una dimensione che noi, la nostra cultura tende a soffocare, che è questa cosa dell'apertura dei pori, capisci? Il carnevale. Perché il Brasile è l'unico posto dove c'è un carnevale perenne così? Perché lì questa cosa qui viene vissuta non come un momento di stacco in cui io decido che mi trucco, anche se poi l'origine culturale del carnevale è quella, cioè il fatto che io posso, in Brasile, che era un paese con gli schiavi, con i poveri, e allora in quel momento tutti potevano uscire dal loro ruolo sociale e per una notte, per due notti, travestirsi e non essere perseguitati, diciamo così. Mancava un cenno al carnevale, ma anche in questo caso, pur essendo nel luogo comune, ci manteniamo alti. Forma e sostanza sono due cose differenti. Il primo romanzo di Giorgio Amado si chiama Il paese del carnevale, che poi è un romanzo sociale duro, un romanzo non è un... Però perché? Perché il carnevale è non è assolutamente quello che si vede in quei soliti due giorni in Italia sui siti, clicca qui per vedere le tette, cioè ci sono e sono sublimi le donne brasiliane, su questo non c'è niente da dire. Però in realtà questa cosa qua non rappresenta quello che poi è, al di là di questa, diciamo, grande sfilata, che pure è uno spettacolo pazzesco, però quello che poi succede, per esempio, a Rio, che inizia a dicembre e finisce appunto a novembre, dicembre, cioè la preparazione carnevale è una cosa molto lunga e che è perché va a recuperare una cosa che è sempre pronta a esplodere, cioè che è quella della festa, del fatto di... Infatti il carnevale di Rio non è assolutamente quella cosa pericolosa, tesa che noi ci immaginiamo. Penso all'incipit di Il paese del carnevale e vedo anch'io tutto il Brasile là in mezzo. Fra l'azzurro del cielo e il verde del mare, la nave verde-gialla ostenta i colori nazionali. Le 3 del pomeriggio, aria immobile, caldo. In coperta tra francesi, inglesi, argentini e Yankees c'è tutto il Brasile. Perché lì noi possiamo veramente ritrovare una dimensione che noi spesso sentiamo, viviamo nella nostra vita di occidentali, di europei, anche di americani o di giapponesi, perché anche i giapponesi amano il Brasile in maniera bestiale, no? Però in realtà non abbiamo modo di viverla questa cosa. Non basta andare a una festa o partecipare a un compleanno particolarmente riuscito, a una festa di matrimonio di queste in cui sono molto impegnati per farti divertire, ballare con la band. No, non è così. Questa cosa qui lì ti piglia, ti trasforma completamente e ti trascina in una possibilità di apertura, tu stesso, delle tue idiosincrasie che avevi all'inizio e poi le svesti. Per chiudere questa visita così solare, Alberto mi regala la frase di uno scrittore americano sul Brasile e che racchiude tutto lo spirito di questo paese. Che malinconia al pensiero di dovermene andare, anzi, che saudade. C'è un romanzo, c'è un libro molto bello di uno scrittore americano, di cui non ricordo mai il nome, il cui esergo è una frase sua che dice: il Brasile mi ha reso intelligente. No? È una cosa straordinaria. Perché questa cosa qua, cioè, in effetti dà una possibilità a tutti di poter esprimere quello che poi, no? Il famoso diamond di Jung, no? Cioè il fatto che noi andiamo cercando una cosa che spesso non troviamo. C'è, esiste, e noi facciamo questa nostra vita caotica cercando di incontrarla e non la troviamo. Spesso questa cosa ci sta aspettando lì. Ora Alberto Riva è in libreria con Sete, edito da Mondadori. Lembrou Carlinhos.